Ai microfoni di Radio Città Fucico, oggi abbiamo Luigi Esposito, regista teatrale della scena bolognese che ha ideato e sta rappresentando Bestiri, una serie di spettacoli che hanno una trattazione precisa. Le prossime date saranno il 13 e il 14 maggio in un ambiente decisamente particolare. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, benvenuto Luigi ai nostri microfoni. Ti chiedo subito che cos'è Bestiri e cosa vuole significare questa serie di spettacoli. Bestiri in sardo è il vestito tradizionale. Bestiri è anche un lavoro teatrale, drammaturgico. Una famiglia sarda che da oltre 100 anni vive tragedie legate proprio a questo vestito. Quando le donne vengono colpite, il vestito scompare e ricompare quando una loro discendente riprende in mano le redini della famiglia. Che differenza c'è tra i vari Bestiri? Ad esempio, adesso sta per essere rappresentato il Bestiri 4. Questo 4 rispetto al primo, quali possono essere le differenze che vuoi descrivere? Le due protagoniste, soprattutto di questo periodo, che va dal 64 in poi, fino ai nostri giorni, sono due donne. La prima è Maria Alba, che muore a 18 anni dopo un parto, e la seconda Assunta, che è questa giovane ragazza, afflitta fra le altre cose dalla sindrome di Tourette, percorre un'infanzia, un'adolescenza, poi anche un'età adulta molto travagliata, molto poco aiutata dagli esseri umani, fu anche ricoverata con TSO malamente. Quando poi si riprese, il suo unico desiderio è indagare la storia di queste donne che vivono in Sardegna, martorizzate da forse un qualcuno che ha le redini, forse una famiglia di gente un po' stravolta, pazza, che vuole restaurare in Sardegna un ordine di purezza. E oltre 100 anni lo sta perseguendo, a scapito di altre donne che poi ne vanno a soffrire. Quattro, perché le prime due soprattutto riguardano la storia di Maria Alba, e ora, soprattutto in questa quarta, spazio scenico avrà questa bellissima chiesina di Via Quadri 11, e lì appunto c'è questa storia già di Assunta, che a 41 anni, pur con la sindrome di Tourette, decide di andare in Sardegna per indagare da vicino su questa tragedia che colpisce queste donne. Ecco, nel concreto, chi verrà allo spettacolo il 13 o il 14 maggio alla chiesina di Via Quadri 11, che cosa vedrà? Vedrà appunto quello che succede in questa chiesa. Sì, ma voglio Dissennori. dire, ci sono 4, 5, 6 attori. Io ho deciso, come ho sempre fatto, dal 1984 a fare teatro di gruppo. Il teatro di gruppo per me è indispensabile per svolgere un'azione di compartecipazione tra il drammaturgo, il regista e gli attori. E anche qui abbiamo creato un gruppo di lavoro fra attori, uno scenografo, un musicista, che assieme appunto andiamo a raccontare, in questo caso in Bestiri 4, quello che succede appunto ad Assunta quando giunge in questo piccolo paesino di Sennori in Sardegna e soprattutto nella piccola chiesa di Santa Lucia. E qui c'è questa situazione di giallo, dove in questa piccola chiesa succedono cose veramente un po' straordinarie anche. Tu infatti nell'84 hai fondato il Teatro del Bosco. Vuoi raccontarci questo percorso? 1984, alle Aldini Valeriani, scuola professionale tecnica superiore, dove al mattino facevo lezioni normali, al pomeriggio ho capito che queste ragazze avevano bisogno d'altro. Molti di loro mi parlavano dei loro hobby, dei loro piaceri, dell'amore per la musica, per la scrittura, per la voglia di fare cose altre. E allora aprì questo laboratorio del pomeriggio, aiutato anche da amici, professori del DAMS che collaborarono con me, loro della parte soprattutto dottorale, con alcune lezioni importanti che fecero questi ragazzi. E io proprio con un lavoro molto sul teatro. E lì nacque questo gruppo che chiamammo Il Teatro del Bosco. Questo lavoro durò 15 anni, questo lavoro di Teatro del Bosco, con 15 spettacoli. Noi uscimmo fuori dalle scuole, perché il nostro fu un teatro di gruppo viaggiante, cercando anche di trovare posti molto lontani, molto diversi, molto anche emarginati, dagli ospedali psichiatrici alle case del popolo, di tutti i generi, lontani ma molto vicini al cuore della gente e alla voglia di fare delle cose, di portare dalla fantasia alla pratica la voglia della vita. Ecco, in chiusura parliamo quindi delle date del 13 e 14 maggio. Lascio a dire a te dove saranno. La chiesa di Santi Cosma e Damiano sarebbe in via Begato, però l'entrata è in via Quadri 11. Ecco, un'entrata molto piccola che ho visto l'altro giorno, è veramente una porticina per Sì. intenditori. Direi che è tutto sul piccolo e tutto un po' su una cosa molto particolare, di una Bologna di un tempo, perché tra le cose è una chiesa antica, una chiesa che non viene adibita dal punto di vista liturgico, vengono fatte alcune situazioni di musicali e c'è tutta un'atmosfera antica che mi riporta, eh sì, perché ve lo finirei dicendo così, questa è la chiesina della mia infanzia. Volevo farti arrivare a questo, infatti. Questo mi lega la gioia, la felicità, l'emozione di fare Bestieri 4 qui, perché io nato in vicolo Bolognetti, mia nonna da bambino molto piccolo mi portava lì per la novena di Natale. Ti ringraziamo anche di questa confidenza autobiografica. Ah, volevo dirvi, proviamo a non fare prenotazioni così formali. Venerdì lo spettacolo è alle 21, sabato alle 17. Basterà che voi veniate mezz'ora prima. Quindi entro le 20:30 di venerdì o 16:30 di sabato e dire siamo di Radio Fusico, un posto ve lo trovo. Dovete dare un contributo perché noi non abbiamo alcuna sovvenzione. Noi siamo un teatro povero che dal 84 vive di niente, di aiuti personali. Per cui questo contributo ci serve proprio per continuare a sperare e sognare di fare questo nostro teatro di gruppo. Perfetto, grazie Luigi, ciao. Arrivederci.